Utilizzo le parole della direttrice generale di Greenpeace, che questa mattina si è presentata qui nella sala stampa della COP a Madrid parlando di grande delusione. In realtà la seconda parte dei negoziati, ma anche la prima settimana, quella dedicata agli aspetti tecnici, diciamo, è stata particolarmente complicata. Ci sono stati tira e molla su tanti argomenti. Quello che occorre fare è implementare l'accordo di Parigi e quindi rendere operativo, attraverso quello che si chiama rulebook, i principi che sono enunciati in accordo di Parigi, in particolare ovviamente il mantenimento della temperatura media globale ad un massimo di 2 gradi centigradi entro la fine del secolo rispetto ai livelli preindustriali. E siccome le promesse che sono state avanzate dagli stati di tutto il mondo finora portano a 3,2 gradi l'aumento della temperatura, si capisce quanto siamo lontani dagli obiettivi, tanto più che l'accordo di Parigi dice un massimo di 2 gradi, ma rimanendo il più possibile vicini agli 1,5. Ebbene, nel bel mezzo dei negoziati, in seduta plenaria, è giunto un comunicato da parte di una serie di stati, Cina, India e Sudafrica e Brasile, quali hanno spiegato che loro hanno già fatto il massimo, sostanzialmente le loro ambizioni sono già al top e quindi loro non ritengono di poter incrementare ulteriormente i loro impegni in materia di riduzione delle emissioni. In più, le avvisaglie di questo erano già arrivate nel corso dei giorni precedenti, perché la Cina, ad esempio, su una questione riguardante il reporting di queste emissioni, e cioè la maniera nella quale si deve vigilare sul fatto che gli stati effettivamente mantengano le promesse che avevano avanzato nel 2015, ebbene, siccome gli Stati Uniti hanno dichiarato di voler retrocedere dall'accordo di Parigi, la Cina avrebbe detto: beh, allora non è che noi lo facciamo da soli questo lavoro, e quindi ulteriore impasse con questa ombra dell'amministrazione Donald Trump che si è allungata sulla fiera di Madrid dove si tiene la COP25. Mi pare di capire che quindi, insomma, uno degli ostacoli maggiori si è rappresentato dai paesi, diciamo così, emergenti. In realtà stiamo parlando di paesi emersi oramai. Lo stesso problema che si era verificato anche a Parigi, appunto, nella COP del 2015, quando appunto i paesi che stanno crescendo enormemente nelle economie in questo periodo, dopo essere stati considerati di serie B, diciamo, rivendicano una sorta di diritto a questo sviluppo, uno sviluppo che però porta inquinamento. È esattamente questo. Va detto che poi c'è un ulteriore aspetto, diciamo sfaccettatura di questo che stiamo dicendo, è il fatto che esistono dei paesi che non soltanto perché la Cina può dire sì, adesso tocca a noi, che è questo di cui stiamo parlando, ma ci sono altre nazioni che dicono: noi non soltanto non siamo responsabili delle emissioni di gas a effetto serra, ma subiamo anche la stragrande maggioranza delle conseguenze. Sono questi small countries che sono quelli che maggiormente si stanno battendo per cercare di chiedere di lavorare seriamente per contrastare i cambiamenti climatici. Il problema è quindi questo, ma è anche il fatto che gruppi di paesi come l'Unione Europea non stanno prendendo una posizione sufficientemente chiara. Questo è stato ribadito anche dalle associazioni e dalle ONG presenti qui alla COP25. Ci si aspettava da parte dell'Unione Europea una leadership maggiore, invece l'Europa si è posta finora a metà strada, diciamo, tra i piccoli paesi che chiedono di agire e quelli invece che, per ragioni diverse, perché legati a uno sviluppo in divenire o semplicemente perché ancora con economie dipendenti da carbone, petrolio e gas, chiedono di rallentare il processo di azione climatica. Se la situazione dovesse rimanere questa, con l'Unione Europea che non riesce a diventare leader mondiale in questo senso, diventa effettivamente molto complicato, anche perché noi abbiamo un anno di tempo, perché questi documenti e queste promesse di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovranno essere consegnate alle Nazioni Unite entro il 2020, quindi alla COP di Glasgow che si terrà il prossimo anno. Se questo non dovesse essere fatto, o se fossero presentati dei documenti insufficienti, sarà veramente veramente difficile, perché saranno passati altri 5 anni e già numerosi studi IPCC e di altri organismi internazionali spiegano che già adesso la riduzione dovrebbe essere enorme per poter raggiungere la carbon neutrality entro il 2050 e arrivare alla fine del secolo, quindi ad una temperatura non superiore ai 2 gradi. Durante appunto la conferenza ci sono state anche mobilitazioni, si sono visti Friday for Future. Come viene percepito, considerato il movimento